Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. I porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. L'avete sentita, era la voce del senatore Matteo Salvini, chiaramente confuso in questa gaffa. Ha detto: i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. E abbiamo assistito questa mattina a un naufragio sulla costa davanti a Tripoli con una bambina che è stata trovata morta, ma domani proprio ci sarà il primo incontro del ministro Lamorgese con la maggioranza per le modifiche al decreto sicurezza. Parleremo di questo, ma parleremo anche degli stati generali. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha denunciato i ritardi nelle procedure a sostegno della liquidità e ha detto che la CIG, la cassa integrazione, è stata anticipata dalle imprese. Parleremo poi anche di ThyssenKrupp. La procura tedesca di Essen ha autorizzato un regime di semilibertà per i due manager condannati per l'incendio che causò la morte di 7 operai a Torino. Avremo l'operaio sopravvissuto Boccuzzi, che è sopravvissuto all'incendio del 2007. E poi ancora ci occuperemo di Giulio Regeni. Il premier Conte sarà sentito domani dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del giovane italiano. Stasera ovviamente anche il calcio con la finale di Coppa Italia, ma i titoli. Confindustria e il governo, cassa integrazione anticipata dalle aziende, ritardi sulla liquidità. Conte: nessun pregiudizio del governo nei confronti delle imprese. Pechino si blinda per i casi in aumento e mette sotto accusa il salmone importato in Italia, 11 regioni senza nuovi decessi. ThyssenKrupp, semilibertà per i due manager tedeschi condannati. Notizia vergognosa, dice sopravvissuto Boccuzzi. Naufragio davanti a Tripoli, trovato il corpo di una neonata, 3 barche in difficoltà, secondo Sea-Watch. Le voci da Tripoli di MSF in esclusiva per Radio 24. Rivera a Radio 24, dedico la gioia di Italia-Germania 4-3 alle vittime del coronavirus. Stasera all'Olimpico, a porte chiuse, la finale di Coppa Italia. I numeri per chiamarci, per mandarci dei messaggi, dei WhatsApp: 349-238-6666. Ma iniziamo con gli stati generali dell'economia. Siamo a metà di questo percorso degli stati generali voluti dal Premier Conte. Arrivano le accuse al governo da parte delle imprese. Il clima è molto proficuo e apprezzato alla grande determinazione del governo di dover procedere speditamente con questo progetto strategico. Il confronto prosegue, il sostegno alle imprese è la priorità. Il Premier Conte smorza nella conferenza stampa finale le tensioni montate nelle ultime ore con le imprese, molto critiche sulle misure del governo. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha infatti definito gravi i ritardi sulla cassa integrazione anticipata dalle imprese e chiesto anche l'immediata restituzione di 3,4 miliardi di accise sull'energia, in riferimento all'addizionale provinciale sull'energia elettrica abrogata nel 2012, rispetto alla quale una recente sentenza della Cassazione ha sancito il diritto a ottenerne la restituzione da parte delle aziende. Il Premier, dal canto suo, ha ammesso ritardi e lentezze nelle procedure a sostegno delle imprese e sulla questione delle accise assicurato ci lavoreremo, aggiungendo però che il governo non può essere chiamato a rispondere di carenze strutturali che l'Italia si trascina da anni. Poi così, sulle imprese. Non c'è assolutamente nessun pregiudizio, ci mancherebbe. Per noi impresa è un pilastro della nostra società. Il Premier ha infine annunciato che dalla prossima settimana potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri il decreto semplificazioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Conte questa mattina protagonista in Senato dell'informativa in vista del Consiglio europeo di venerdì. Opposizioni all'attacco. Per il Premier Conte il confronto resta in salita anche con il centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia hanno disertato le aule di Camera e Senato durante il suo intervento e hanno respinto al mittente il suo appello alla coesione nazionale, contestata anche la scelta di riferire in Parlamento sul prossimo Consiglio europeo con un'informativa che non prevede la possibilità di voto, il leader della Lega Salvini. Se ci fosse qualche aperitivo in villa in meno e qualche visita a una fabbrica, un'azienda artigiana in più sicuramente non farebbe male. Forza Italia resta invece su posizioni più dialoganti. La maggioranza dal canto suo fa quadrato attorno a Conte e rivendica quanto fatto dal governo anche in Europa per affrontare l'emergenza. Alla Camera scatena una bagarre, il duro attacco rivolto al centrodestra dal grillino Scerra. Dobbiamo dire che i primi che hanno sperato nel fallimento delle trattative, che hanno sperato nella disgregazione dell'Unione Europea e conseguentemente, ahi noi, nella sconfitta degli italiani sono state le nostre opposizioni. Sono stati in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo all'aggiornamento di oggi sui dati del contagio da coronavirus. Ancora 43 vittime in Italia e una risalita dei contagi pur in presenza di più test, 329 nelle ultime 24 ore, tra cui 242 in Lombardia. Il maggiore incremento di casi nelle altre regioni è di 41 in Piemonte, 14 in Emilia-Romagna, 10 nel Lazio. A escludere che i nuovi contagi, quasi tutti asintomatici, siano legati alle riaperture, è il primario di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Sul fatto che siano legate alle aperture lo escludono in maniera più categorica, nel senso che noi stiamo facendo questi tamponi a soggetti in cui ci aspettiamo di trovarli positivi, le persone che stanno nell'RSA, operatori sanitari, persone che hanno una sierologia positiva, e trovarne soltanto questi numeri vuol dire che stiamo assistendo ormai a una coda di questo evento epidemico iniziale. Intanto dagli operatori sanitari lombardi in prima linea contro il coronavirus è scattata una richiesta di solidarietà sociale, sostanzialmente un indennizzo per i medici e i paramedici che hanno perso la vita o la salute lavorando contro il Covid-19. Ad avanzare ufficialmente la richiesta allo Stato di una legge urgente in tal senso è l'Ordine dei Medici di Milano. C'è la consapevolezza, afferma il consigliere Giuseppe De Leo, della possibilità concreta di realizzare questa legge, soprattutto sottolinea alla luce dell'insufficienza e dell'inadeguatezza delle coperture assicurative destinate al personale medico-sanitario. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il coronavirus aumenta anche la preoccupazione in Cina. Pechino è blindata e più di 1200 voli sono stati cancellati a causa della nuova emergenza da Covid-19, con altri 137 casi da giovedì scorso. Sono almeno 100.000 gli operatori sanitari che hanno già eseguito oltre 350.000 tamponi sulla popolazione. Per l'attuale focolaio, partito dal grande mercato all'ingrosso di Xinfadi, i sospetti sono ricaduti subito sul salmone norvegese importato, poiché il virus sarebbe stato ritrovato sui taglieri usati per la lavorazione di questo pesce. E mentre Oslo difende i suoi salmoni, la Cina chiarisce che non ci sono prove per dimostrare che siano la causa del nuovo focolaio. Intanto anche in Germania c'è una nuova emergenza coronavirus, registrata questa volta nel Nordrhein-Westfalia, in uno stabilimento di confezionamento della carne. Sarebbero almeno 400 i dipendenti positivi al test e circa 7.000 le persone messe in quarantena. In Svezia, invece, dove il lockdown non è mai stato applicato in modo severo, sono salite ad oltre 5.000 le vittime del Covid-19. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il calcio stasera a Roma c'è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. I bianconeri e gli azzurri si giocano il primo titolo post-Covid in un'atmosfera molto particolare, ovviamente. Abbiamo in collegamento con noi Dario Ricci. Buonasera Dario. Buonasera Valentina, hai detto bene, sì, atmosfera davvero particolare all'Olimpico, porte chiuse ovviamente, a parte una cinquantina di giornalisti accreditati e gli staff delle due squadre, vista dalla TV c'è anche questo spettacolo un po' particolare degli spettatori digitali, no? Che riempono le curve dell'Olimpico altrimenti deserte, partite che si gioca 50 anni esatti da quell'Italia-Germania 4-3, e speriamo che davvero che quella vittoria sia ben augurante anche per la fine di questa pandemia. E poi c'è il calcio, e finora qualcosa si è visto, siamo al decimo minuto, risultato ancora di 0-0, ma Juventus vicina al vantaggio al quinto minuto. Dybala ha approfittato di un errore di Callejon in disimpegno per servire Cristiano Ronaldo, che di destro ha calciato verso la porta del Napoli. Bravo Meret a respingere la conclusione di CR7. Tra le varie curiosità anche la premiazione, del tutto particolare, sarà una premiazione self-service, senza assembramenti ovviamente. Praticamente le due squadre, sia la perdente sia anche chiaramente la vincitrice, si avvicineranno a un tavolo e la prima prenderà le medaglie di partecipazione e consolazione, la seconda solleverà al cielo la Coppa Italia. Comunque anche questo è calcio, è importante che si giochi. Undicesimo di gioco all'Olimpico, 0-0 tra Juventus e Napoli. Grazie a Dario Ricci, con il quale ci ricollegheremo al termine di Effetto Notte per vedere come va questa partita. Prima di dare spazio alla viabilità c'è un comunicato: domani il Sole 24 Ore non sarà in edicola, oggi il sito non è stato aggiornato, lo sciopero dei giornalisti fa seguito alla richiesta di ricorso unilaterale alla cassa integrazione Covid per i giornalisti del quotidiano senza intesa con il sindacato. I comitati di redazione di Radio Cor Plus e Radio 24 esprimono massimo sconcerto e solidarietà ai colleghi. Ora ci fermiamo, ma torniamo subito dopo la viabilità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. La passione per il digitale vi coglie? Abbiamo una rosa di soluzioni per voi. Se sei un commercialista, con Profis hai Sportello Cloud per collaborare con i clienti e gestire i servizi digitali di oggi come fatturazione, conservazione, incassi, pagamenti e tutti i nuovi servizi di domani, con la comodità di una piattaforma online accessibile dove vuoi e quando vuoi. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E bentornati a Effetto Notte, questa sera ci occupiamo delle notizie in questi 60 minuti, gli approfondimenti e le notizie di tutta la giornata di oggi. Nuovo affondo degli industriali nel giorno del faccia a faccia con il governo agli stati generali. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha denunciato i ritardi nelle procedure a sostegno della liquidità e ha detto che la cassa integrazione è stata anticipata dalle imprese. Vedremo come ha risposto a stretto giro il Premier Conte. Le dichiarazioni di Bonomi sono state affidate a Twitter. Ma abbiamo in collegamento per parlare di questi temi, anche di temi economici, il professor Francesco Daveri, direttore del Master Full Time MBA dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera. Buonasera. Le farei sentire, professore, insieme agli ascoltatori, ascoltiamo assieme che cosa ha detto Conte oggi in risposta al presidente degli industriali. Sentiamolo. Che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Allora questo, a nome del governo, voglio precisarlo molto chiaramente. A parte che le misure che noi abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti, per buona parte anche consistente, sono dedicati al sostegno delle imprese. Questa era la voce del Premier Conte, che ha parlato anche delle difficoltà economiche dell'Italia. Sentiamolo. Proprio questa mattina l'Istat ha pubblicato gli ultimi dati disponibili relativi al fatturato dell'industria del mese di aprile, e sono cifre che ovviamente fotografano, se mai ne avessimo ancora bisogno, una congiuntura drammaticamente difficile. Il fatturato dell'industria è calato del 29,4% rispetto al mese di marzo, del 23,9% nella media dell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019. Insomma, dati drammatici per l'economia, professore. Siamo alla vigilia anche del Consiglio europeo, nel quale forse in modo interlocutorio non decisivo, ma si parlerà anche di questo recovery fund, una valanga di miliardi per l'Italia, ma se tutto va bene arriveranno il prossimo anno. E a questo punto come si fa a uscire da questa crisi? E poi anche questa domanda: c'è in effetti un pregiudizio nei confronti delle imprese da parte di questo governo? Parto dall'ultima. È un governo di coalizione, quindi con tante anime al proprio interno. È un governo che potremmo definire di centro-sinistra, e che include tra le sue componenti il Movimento 5 Stelle, che nell'anno precedente, quindi con il precedente governo, aveva dato luogo al decreto dignità, che in realtà conteneva alcuni elementi che secondo me potevano essere considerati quasi anti-impresa. Non mi sembra che il governo attuale, però, quindi avendo cambiato partner di coalizione, all'interno del governo attuale ci siano elementi che portino a ritenere un'affermazione del genere fondata. Insomma. Poi un altro conto è dire aver azzeccato le misure anticrisi. Questo è un altro paio di maniche, ma questo non c'entra, con questo magari non c'entra necessariamente un atteggiamento pregiudizialmente ostile alle aziende, ma semmai invece il fatto di non aver magari capito bene quali erano le necessità delle aziende o almeno delle aziende di alcuni settori, cioè aver tarato le misure del decreto rilancio, faccio un esempio specifico, sulle aziende che fanno un massimo di 5 milioni di euro di fatturato, che hanno perso un terzo di questo fatturato rispetto all'anno precedente, e vuol dire lasciare fuori le imprese che sono più grandi di 5 milioni e un euro, e non è detto che nell'ambito degli eventi, per esempio, le imprese che fanno 5 milioni di euro siano fino a, sono le uniche di cui tenere conto, e di fatto le imprese che hanno appena un po' più di 5 milioni di euro rischiano di vedere ben poco di tutto quello che è stato predisposto per aiutarle. Invece sulle misure da mettere in campo in questo momento, visto che bisognerà aspettare per i fondi europei, sarà necessario ricorrere al MES? Una prima cosa da dire è che in realtà già da maggio le cose vanno un po' meglio. Adesso quello che stiamo vedendo, in giugno arrivano i dati di aprile, succede sempre così, cioè che in un mese arrivano i dati due mesi prima. Quindi adesso ci sembra veramente che sia la caporetto di tutto, dell'industria, dei servizi e così via. I dati del mese di maggio, con la ripartenza molto graduale che è avvenuta, segnano già appunto un segno di inversione, e questi arriveranno nel corso del mese di luglio. Quindi bisogna cercare di essere troppo strabici nel valutare quello che sta succedendo all'economia. Detto questo, naturalmente c'è un gran bisogno di aiutare l'economia italiana, serviranno tutti i modi per riuscire a finanziare il deficit aggiuntivo che dovremo fare, che finirà al 10% del PIL e così via. E quindi ogni strumento che possa consentirci di non caricare solo sul debito degli italiani il debito aggiuntivo, il deficit che si fa, è benvenuto. Il MES rappresenta un'alternativa a fare debito pubblico emesso con BTP, con il BTP Italia, per esempio, che costerebbe 2% di interesse allo Stato italiano, mentre con il MES pagheremmo circa lo 0,5%. Quindi io prenderei di corsa, insomma, questi soldi del MES. Ci sono alcuni problemi politici dentro la maggioranza da risolvere per riuscire ad arrivare a questa decisione. Vedremo quindi se il nodo politico intorno al MERS si riuscirà a sciogliere, perché quello alla fine è l'ostacolo, no? Dal punto di vista economico, professore, non ci sono ostacoli. Ma lì gli ostacoli riguardano più che altro il recovery fund, cioè l'entità dei soldi che potrebbero arrivare nel corso del 2021 all'Italia dallo sforzo congiunto dell'Europa. Lì servirà a impegnarsi per tempo all'adozione di misure e di riforme che farebbero bene all'Italia a prescindere dalla situazione attuale, come andare più veloci sulla digitalizzazione, costruire un futuro di sostenibilità energetica, far concludere le piccole opere infrastrutturali sparse in giro per l'Italia che migliorino la viabilità e la mobilità degli italiani, sia nel trasporto locale ma anche nel quello stradale e autostradale. Tutte queste cose servono, l'Europa ci dà i soldi per farle, e però potrebbero arrivare, i soldi arriveranno molto probabilmente nel 2021, a meno che non facciamo un po' in fretta a descrivere bene cosa vogliamo fare con questi soldi. Se presentiamo il piano in settembre, è chiaro che prima del 2021 non arriverà. A proposito di Recovery Fund, si parla di un passo storico dell'Europa. Lei è d'accordo con questa interpretazione? Beh, effettivamente c'è una presidentessa tedesca della Commissione europea che propone di fare molto di più di quello che aveva fatto la precedente Commissione europea, che aveva a capo un lussemburghese. Quindi il fatto che il paese più importante economicamente, forse anche politicamente, ma sicuramente economicamente dell'Europa, abbia messo una persona che viene, un ex ministra che viene dal proprio interno, a fare da garante rispetto a quello che si vuole fare, secondo me rappresenta un passo importante. E il fatto che proprio questa commissione voglia spingersi in aree che finora erano state appunto lasciate un po' inesplorate, come ampliare gli interventi e spalmarli su un orizzonte di tempo molto più lungo, emettendo tra l'altro dei titoli che alla fine sono della specie di Eurobond. Beh, insomma, tutte queste cose sono sicuramente nell'insieme, se verranno approvati, un passo storico. Ci sono sempre le questioni legate ai tempi e ne ha parlato anche il segretario della Lega, senatore Salvini, intervenendo questa mattina in aula al Senato. Sentiamo. Non è concreto abbastanza l'idea di recovery plan a settembre? Assolutamente no, i soldi che arrivano l'anno prossimo non servono, è tardi l'anno prossimo. Dunque, fino a chiedere un'unità anche da parte delle opposizioni? Noi lo riempiamo di proposte, se però lui non ascolta nessuno, non ascolta gli italiani, è un problema suo. Era chiaramente a margine dei lavori del Senato, non era in aula il senatore Salvini. Oggi c'è stata anche una dialettica con l'opposizione, una dialettica tutta in salita fra il premier Conte e l'opposizione. Lega e Fratelli d'Italia hanno disertato l'aula, contestata la scelta di riferire in Parlamento sul prossimo Consiglio europeo, ma senza un vero e proprio voto. Professore, da questo punto di vista il periodo è particolare, ma l'assenza di un voto su questo è in effetti un atto irrispettoso contro le opposizioni? Ma insomma, effettivamente sarebbe meglio che il Parlamento si arrivasse a un voto esplicito al riguardo, però insomma, o quantomeno si ricercasse in modo più attivo un consenso che sia il più possibile maggioritario all'interno del paese, in modo da poter negoziare da posizioni di maggiore forza quando si va in Europa. Quindi questo potrebbe essere in effetti una cosa auspicabile. È chiaro che però questo non può trasformarsi nel garantire diritto di veto all'opposizione sulle proposte di un governo che comunque rappresenta la maggioranza parlamentare degli italiani. Grazie professore per essere stato con noi. Noi passiamo ad altri argomenti subito dopo il meteo. Siamo in attesa di collegarci con Antonio Boccuzzi, l'operaio della ThyssenKrupp che è sopravvissuto all'incendio del 2007, per commentare con lui questa decisione della procura tedesca di Essen tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È andata bene, più tranquillo del previsto in realtà. Io stavo vicino al computer con il mio banco e tutti i professori a distanza, distanziati, erano più di 2 metri da me in realtà. E tutti con le mascherine, eppure io l'ho potuto abbassare. Il computer aveva uno strato di cellophane sotto, in modo tale che per ogni candidato lo cambiano e risanificano tutto. Sono tranquillo. La voce è quella di una studentessa che stamattina ha affrontato la maturità. Torniamo quindi a parlare di scuola, lo facciamo con Lorenzo Fioramonti, deputato del gruppo misto, ex ministro della pubblica istruzione che ha lasciato il governo a fine 2019. Buonasera innanzitutto, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, onorevole, le scuole hanno riaperto oggi per la prima volta per la maturità. Ieri sera ai nostri microfoni la ministra Azzolina ha detto che le linee guida del governo sulla riapertura a settembre arriveranno a giorni e intanto gli enti locali hanno già stilato le loro linee guida, le hanno inviate al ministero. Come vede questa riapertura a settembre? La vedo con grande difficoltà, d'altronde già siamo fuori tempo massimo, perché se le cose che si ascoltano sui giornali sono vere bisognerà programmare molto bene, serviranno investimenti, le scuole devono prepararsi. Dovranno prepararsi tra luglio ed agosto, quindi comunque mesi difficili, e le linee guida non sono ancora arrivate. In altri paesi già la scuola è ricominciata, noi siamo gli ultimi, i nodi vengono al pettine, bisognava investire di più prima, bisognava investire con coraggio, bisognava avere delle scuole più resilienti. Noi purtroppo non l'abbiamo fatto per tanti anni, non soltanto negli ultimi anni. Di scuola oggi ha parlato anche il presidente del Veneto, Zaia, sentiamolo assieme. Noi dovevamo riaprire le scuole, noi al posto dei centri estivi dovevamo riaprire le scuole. Ma questo tema non siamo mai stati riusciti a portarlo avanti. Cioè, aver fatto anche un mese di scuola non avrebbe creato complicazioni, no? Farci tutto a giugno. Cioè, i ragazzi si sono fatti aprile, maggio, cioè, ti fai a casa 3 mesi. Questo era Zaia, tra l'altro anche il governatore ligure Toti ha detto martedì che avrebbe voluto riaprire le scuole. Onorevole, lei avrebbe riaperto le scuole anche per un mese? Allora, noi dobbiamo assolutamente vedere qual è la situazione epidemiologica del nostro paese. Ora, aprire le scuole in Italia con complessi plessi scolastici da 3-4 mila studenti, classi da 30 studenti, poteva essere molto più complicato. Io non lo so perché non ho i dati sotto mano, non sono più il ministro. Io voglio fidarmi del governo che abbia preso la decisione giusta, però che adesso non si sveglino tutti rendendosi conto che la scuola sottofinanziata, una scuola pachidermica, una scuola con delle infrastrutture fatiscenti, non può riaprire nei momenti di difficoltà. La differenza tra noi e gli altri paesi europei, gli altri paesi europei hanno scuole piccole, hanno scuole diffuse sul territorio, fare il distanziamento nelle scuole di altri paesi europei è più facile, quindi le riapri con maggiore facilità. Noi abbiamo creato un sistema scolastico che non funziona, che non è in grado tra l'altro di produrre i risultati di insegnamento e apprendimento che servono, e quando poi ci sono questi problemi non riusciamo a riaprirle. Io ho paura che anche a settembre avremo tantissime ma tantissime difficoltà e tantissimi insegnanti precari e tante cattedre scoperte, come tutti gli anni, ma peggio. Lei ha fatto parte dei 5 Stelle, poi adesso lo dicevamo, fa parte del gruppo misto. Il movimento, aveva detto, ha perso la sua anima, l'ha detto qualche tempo fa. La pensa un po' come Di Battista, si parla insomma di scissione. Lei sarebbe pronto a lasciare e a unirsi a un nuovo movimento con Di Battista? No, io ho lasciato il Movimento 5 Stelle già a gennaio, dopo una cascata di critiche nei miei confronti dovute al fatto che mi fossi dimesso quando avevo detto che l'avrei fatto se non ci fosse stato un cambiamento. Anche la posizione sulla scuola del Movimento 5 Stelle è molto identificativa di questa grande crisi che il Movimento vive. Io ho fatto un programma elettorale in cui dicevamo che avremmo investito 15 miliardi in più l'anno sulla scuola. Io che ne chiedevo 3 sono stato considerato un pazzo. Non mi stupisce tutto quello che sta accadendo in questo momento, non mi stupisce la posizione che hanno preso su molte questioni che hanno a che vedere con le risorse della scuola, il fatto che i bambini, i giovani non compaiono mai, quasi mai, nella narrazione di questo governo, il fatto che voi parlate della scuola, ma per esempio l'università, abbiamo già deciso che ricominceranno le lezioni a febbraio 2021, le università, ma che situazione è questa? Una situazione paradossale, cioè noi stiamo perdendo non solo mesi, anni in questa competizione internazionale per l'eccellenza, per la conoscenza. E poi perdiamo mesi e mesi a parlare di leggi elettorali, mesi e mesi a parlare di altri stratagemmi politici. È come se la classe politica, ma in parte anche un pezzo di paese, avesse smarrito il senso del reale, di quello che davvero serve, a partire proprio dai bisogni di queste nuove generazioni che rischiano di essere pregiudicate per anni a venire. Invece la notizia che arriva dalla Spagna, quella che vuole presunti fondi dal Venezuela al Movimento 5 Stelle, tra l'altro Casaleggio ha depositato una querela oggi, questa notizia la stupisce? Ma sì, io ho conosciuto il Movimento 5 Stelle, lo dico col sorriso, sono talmente disorganizzati che non credo sarebbero in grado di prendere soldi da governi stranieri o orchestrare cospirazioni internazionali, la vedo molto difficile, secondo me si tratta di una bufala. Io poi sinceramente queste questioni non le conosco direttamente, però mi stupirebbe. Il Movimento 5 Stelle ha un problema di debolezza interna dovuto tutto alla sua grande disorganizzazione, alla sua incapacità di trasformare delle idee anche giuste in molti casi in implementazione, in politiche pratiche. Spesso si trova a fare esattamente il contrario di quello che dicevo fino a qualche mese fa. Invece il movimento ipotetico di Di Battista in qualche maniera potrebbe interessarla? Guardi, parte di queste cose ne parlate voi sui giornali, non mi sembra che sia all'ordine del giorno da parte di nessuno. Io Alessandro Di Battista non lo conosco, non so cosa possa avere in testa, dubito che voglia fare qualcosa di suo. A me interessa che chiunque, Di Battista come qualunque altro rappresentante interno o esterno a questa maggioranza, cominciasse a riflettere sulle questioni vere: la formazione, il clima, l'ambiente, l'innovazione, che tipo di città vogliamo costruire. Dobbiamo farlo in fretta, stiamo perdendo mesi, anni preziosissimi, perché abbiamo pochi anni per cambiare il paese. Ecco, se questo diventasse un argomento normale all'interno del dibattito di qualunque partito politico, io sarei contentissimo, avrei raggiunto il mio obiettivo. Il mio obiettivo è quello di instillare certi valori e certi principi nel dibattito politico di questo paese, che è fermo nel passato da troppi decenni. Questo è quello che mi interessa in questo momento. Grazie, la ringrazio. Grazie a lei, buonasera. Noi passiamo all'argomento che vi avevo anticipato. La procura tedesca di Essen ha autorizzato un regime di semi-libertà per i due manager tedeschi di ThyssenKrupp ritenuti corresponsabili dell'incendio che causò la morte di 7 operai a Torino nel 2007. Abbiamo in collegamento il sopravvissuto dell'incendio, Antonio Boccuzzi. Buonasera. Buonasera a voi. Boccuzzi, ho letto che lei ovviamente ha accolto questa notizia con grande dispiacere. Non voglio farla dispiacere di più, ma ci sono delle dichiarazioni di Raffaele Guariniello, il magistrato oggi in pensione che a Torino coordinò le indagini sull'incendio alla ThyssenKrupp, e dice: passare la notte in un carcere significa in ogni caso privazione della libertà. Ma la notizia, per quanto mi riguarda, è incredibile, mi lascia esterrefatto e mette la giustizia in saldo. Il vero problema è qui, perché 4 anni fa noi abbiamo avuto una sentenza definitiva che in Italia ha riconosciuto 10 anni di reclusione all'amministratore delegato, che essendo tedesco ha l'opportunità di godere di un trattamento di favore, che quella pena si trasformi in 5 anni. Ora, addirittura avere il vantaggio di che gli venga concessa la semilibertà mi sembra davvero che si vada oltre all'immaginabile. I familiari delle vittime hanno detto che faranno una protesta eclatante a Roma. Lei si unirà? Beh, noi sono qui con loro in questo momento, siamo delusi, amareggiati, pensavamo che con le parole del procuratore Saluzzo della scorsa settimana si fosse messo un punto finalmente al percorso che abbiamo vissuto in questi 12 anni e mezzo dalla tragedia. Così non è, non ci fermiamo davanti a questa decisione e ricominceremo di nuovo a chiedere giustizia, perché giustizia oggi non c'è stata, e questa decisione mina anche a quanto di buono era stato fatto nel percorso del nostro processo, e dà, a mio avviso, anche un messaggio pericoloso, cioè l'impunità per commettere reati legati a infortuni sul lavoro rimane, se così rimarrà per sempre, perché se neppure una sentenza definitiva può voler dire qualcosa, a me viene il dubbio, ecco, che su che cosa davvero deve accadere nel nostro paese perché finalmente si possa parlare di giustizia anche nei confronti di chi perde la vita sul lavoro. Grazie ad Antonio Boccuzzi, buona serata. Grazie a voi, grazie. Noi ci fermiamo per la viabilità, subito dopo parliamo di Egitto, ma anche di sbarchi, di Libia e poi di Coppa Italia. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Giuseppe Dentice, professore, ricercatore dell'ISPI per il Medio Oriente, benvenuto, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Con lei parliamo appunto di Medio Oriente, in particolare iniziamo con l'Egitto. Il premier Conte sarà sentito domani dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Poi è previsto il 1 luglio prossimo un incontro tra i magistrati della Procura di Roma e i colleghi della Procura Generale del Cairo per fare luce sulla morte del ricercatore. Ovviamente in questi giorni piovono critiche sul governo per la commessa all'Egitto di circa 10 miliardi per 2 navi, in prospettiva anche di altre fregate, una classe di pattugliatori. Cosa ci si può aspettare dal discorso che farà domani Conte, da quello che dirà in commissione parlamentare d'inchiesta? La commissione dovrà ascoltare il premier soprattutto in relazione agli ultimi sviluppi della commessa che raccontava lei di Fincantieri, per capire esattamente quali sono ovviamente i dettagli dell'accordo, che ancora non è stato definitivamente ultimato. È chiaro che l'accordo in sé apre diverse discussioni relative anche e soprattutto a questioni che noi conosciamo, ahimè, molto bene, come quelle relative a Giulio Regeni. La questione è molto semplice, la cooperazione, diciamo, in termini di giustizia con l'Egitto per far luce sul caso è di fatto bloccata. Bloccata da diverse situazioni, soprattutto dalla volontà dell'Egitto di non procedere nella incriminazione o comunque nel dare avvio a un processo contro le persone che sono state individuate dalla magistratura italiana come responsabili dell'omicidio. Ricordiamo che queste persone sono tutti alti ufficiali dell'intelligence egiziana. Quindi in questo caso è presumibile pensare che il Premier dovrà riferire sullo stato della questione Regeni, che al momento, ripeto, una situazione, diciamo, di stallo, e questioni relative anche e soprattutto ai rapporti bilaterali con l'Egitto. Oltre all'Egitto, nell'area, la destabilizzata Libia, da cui noi continuiamo a vedere arrivare delle barche, Sea Watch ha recuperato quasi 100 persone oggi, ha avvistato tre altre barche, il corpo di una bambina di pochi mesi vittima di un naufragio di sabato scorso al largo della Libia è stato recuperato su una spiaggia, Sorman, proprio oggi. Vediamo anche i numeri degli arrivi attraverso il Mediterraneo centrale, sempre più crescere in questo 2020, e arrivano testimonianze terribili dalla Libia, come quella di Ilina Angelova di Medici Senza Frontiere, che Radio 24 ha avuto in esclusiva. Sentiamo. Circa 1200 rifugiati e migranti sono attualmente detenuti arbitrariamente nei centri di detenzione ufficiali. Queste persone sono in pericolo perché i centri si trovano molto vicino alle zone di conflitto attive intorno a Tripoli. Possono essere gravemente feriti o uccisi. Alcuni centri sono stati chiusi a causa della vicinanza alle zone di conflitto. Questa è la voce che ci arriva da Tripoli dell'Humanitarian Affairs Manager di Medici Senza Frontiere, che sta lavorando nell'area. Giuseppe Dentice, questa testimonianza ci parla di un aspetto che in questi mesi con la chiusura per il Covid abbiamo un po' trascurato, ma che potrebbe con l'estate rivelarsi davvero drammatico per i migranti, ma anche preoccupante per l'Europa. Assolutamente sì, diciamo che da un lato la questione Covid, dall'altro il conflitto in Libia, che comunque continua a rimanere molto alto e che continua a creare situazioni di grande indigenza. In tutto ciò rimangono irrisolte le questioni dei vari migranti, che siano essi profughi, rifugiati, poco conta. La questione è che tutte queste persone si trovano a vivere in condizioni assolutamente di emergenza di qualsiasi tipo e che spesso e volentieri sono alla mercé di criminali comuni o anche di persone, diciamo, organizzate in veri e propri gruppi criminali che gestiscono una forma di racket legato alle migrazioni e che in questo caso sfruttando le varie zone di opacità riescono a favorire sbarchi verso le coste europee. Chiaramente in una situazione come quella attuale, considerando anche, diciamo, la bella stagione, quindi anche dal punto di vista delle traversate via mare, la situazione di miglioramento delle condizioni meteorologiche dovrebbero favorire anche un maggior numero di sbarchi. E un maggior numero anche di partenze, anche dalla Tunisia. Abbiamo testimonianza di questo, adesso le facciamo sentire ai nostri ascoltatori. Anche su questo ci ha parlato Ilina Angelova di Medici Senza Frontiere, sentiamola. L'Alto Commissariato per i Rifugiati ha appena confermato che tra gennaio e maggio 2020 le partenze marittime dalla Tunisia verso l'Europa sono aumentate di 4 volte rispetto a quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, ciò non significa che il numero di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che hanno lasciato la Libia sia diminuito. Al contrario, dall'inizio del 2020 il numero è aumentato di 4 volte. Insomma, la preoccupazione per le persone che si trovano nei centri di detenzione in Libia è alta, e anche per le partenze dalla Libia e dalla Tunisia. Grazie a Giuseppe Dentice, ricercatore ISPI per il Medio Oriente. Buona serata. Grazie a voi. E noi veniamo al calcio, perché lo sapete, insomma, si sta giocando questa finale di Coppa Italia. Prima ci siamo collegati con il nostro collega Dario Ricci, che è ancora in collegamento con noi. Buonasera Dario, come sta andando? Ben ritrovata Valentina. 0-0 alla fine del primo tempo, finito da pochi istanti allo Stadio Olimpico di Roma tra Juventus e Napoli. Un primo tempo in cui forse la Juventus ha avuto un po' più possesso palla, ma le occasioni migliori sono decisamente capitate ai partenopei. Al quinto minuto, infatti, il portiere del Napoli, Meret, è stato bravo a salvare su un diagonale destro di Ronaldo. Poi al 24esimo, punizione per i partenopei, Insigne calcia di destro e colpisce il palo, e Buffon c'era comunque arrivato, ma è stato salvato dal palo. E poi al 41esimo e al 42esimo altre due occasioni: prima Demme da distanza ravvicinata, botta sicura, bravissimo Buffon a respingere in angolo, e poi ancora Buffon pronto a salvare in calcio d'angolo su un'altra conclusione di destro di Insigne. Quindi partita apertissima, risultato sullo 0-0 in una giornata davvero particolare per il nostro calcio. Una giornata particolare, lo dici bene, perché è l'anniversario della storica partita Italia-Germania 4-3 a Città del Messico, mercoledì 17 giugno 1970, e nella partita del secolo c'era stato il gol del secolo, no, di Gianni Rivera. Sentiamo la sua voce. Tutti hanno da raccontare qualcosa di positivo nel momento in cui si stava svolgendo la partita, e quindi ognuno aveva un racconto particolare, però tutto concentrato sul risultato della partita. Ci hanno anche detto che alla sera, appena finita la partita, sono andati a festeggiare gli italiani di destra, sinistra, centro, tutti insieme, per cui abbiamo senza volere unificato l'Italia, che però purtroppo è durata solo una notte. Non era scontato, però questo è importante, perché c'è sempre un motivo per poter dividerlo in tanti e anche con idee diverse, per cui il calcio evidentemente è in grado di dare questo messaggio. Sugli spalti c'erano 107.412 spettatori, Dario, un'altra Italia, una vita fa. Eh sì, devo dire che poi questo numero fa venire i brividi a pensare che invece oggi all'Olimpico gli spalti sono deserti e riempiti virtualmente via TV da spettatori digitali. Davvero, sì, davvero, ecco, quella cifra mette i brividi proprio a confronto con il calcio che pur stiamo vedendo questa sera. Davvero emozionante oggi risentire la voce di Gianni Rivera, ospite di tutti i convocati, e come avrai percepito è rimasto anche l'esperienza del Rivera politico, no? Nella sua testimonianza, perché quello che gli era riuscito da fare da calciatore, riunire i tifosi con quel leggendario gol, ecco, nella sua esperienza da politico ha visto quanto invece è molto più difficile trovare dei punti d'incontro. Però Rivera ha piazzato oggi, e chiudo, un altro suo straordinario colpo di classe, quando proprio durante la nostra diretta a tutti i convocati ha voluto dedicare la gioia e le emozioni di quella storica vittoria a tutte le vittime del coronavirus. Ecco, forse è questo che a 50 anni di distanza oggi ci lega ancora all'Italia di allora, straordinaria partita. Sì. Grazie a Dario Ricci, e grazie anche per il lavoro in redazione a Jacopo De Franchi, a Riccardo Poli, in regia Filippo Aureggi. Buona serata, ci risentiamo domani, ma tra pochissimo un riepilogo dei titoli.